Ieri è stata questa la decisione presa è stata, noi la consideriamo davvero gravissima, perché è evidente come questo governo si concentri sulla repressione delle lotte al posto invece di interessarsi a quelli che sono problemi reali della maggior parte della popolazione italiana, al posto infatti di occuparsi dell'emergenza casa che riguarda tanto gli studenti quanto le famiglie, si preoccupa invece di alzare le pene per chi occupa le case per difendere un diritto, perché poi il vero problema è che ci si dimentica sempre di dire che chi occupa una casa lo fa perché è costretto, non perché non è una libera scelta, e quindi la riteniamo molto grave. Tra l'altro, appunto, come Potere al Popolo siamo sempre stati impegnati nel diritto, nella lotta per il diritto all'abitare, ed è evidente che questa è una criminalizzazione di una lotta che invece mette al centro un diritto essenziale come quello di avere un tetto sopra la testa. Tu in un post hai sottolineato che questa cosa è un favore anche alla speculazione edilizia. Ma certamente, perché se pensiamo a le migliaia e migliaia di case sfitte che ci sono nelle nostre città, oppure al problema della turistificazione delle città con gli affitti brevi, per cui studenti e famiglie vengono di fatto trattati o buttati fuori dalle case per poter fare appunto alloggi brevi per turisti, è evidente che in questo business non ci guadagnano, come dire, anche falso il mito che del piccolo proprietario con la seconda casa ereditata dalla nonna, ecco, in realtà ci sono veramente colossi e multinazionali che su questo fanno i miliardi, mentre però per le persone normali sta diventando davvero impossibile trovare una casa a prezzi contenuti, se non a volte addirittura trovarla. Quindi è evidente che al posto quello che si dovrebbe fare invece è investire in edilizia residenziale pubblica, a fare manutenzione delle logiche che ci sono già, se pensiamo a quello che è, insomma, la tragedia che sono successe a Napoli recentemente, ci fa vedere come l'emergenza è tutta da un'altra parte. Per quanto riguarda il carcere, anche per chi tenta di ostacolare la realizzazione di opere pubbliche o definite strategiche, se pensiamo ad esempio a lotte che abbiamo visto ad esempio a Bologna per la salvaguardia del Parco Don Bosco, che hanno vinto queste lotte, se questo articolo fosse stato in vigore prima, invece gli attivisti sarebbero in carcere. Esatto, quello è un altro passaggio estremamente pericoloso, estremamente grave di questa approvazione dell'ideale sicurezza, e infatti anche lì si parla di opere di pubblica utilità, quando invece tendenzialmente sappiamo bene che le grandi opere in questo paese di pubblica utilità hanno poco, semmai appunto anche lì per arricchire anche lì la speculazione, anche l'avvio di cantieri magari che durano decenni inutilmente. Se pensiamo anche ai soldi che si intendono per esempio investire sul ponte sullo stretto, è evidente come invece andrebbero investiti in tutt'altra parte, dalla scuola alla sanità all'istruzione. Alla fine il discorso è sempre lo stesso, si toglie, come dire, l'attenzione dai veri problemi. Credo anche che ci sia un elemento, che penso che il fatto che si continui a criminalizzare le lotte, perché comunque fa paura la possibilità, a Bologna l'abbiamo visto bene, il fatto che quando ci si organizza in modo collettivo poi si può anche vincere una battaglia, quindi penso che questa criminalizzazione vada anche a colpire proprio la possibilità, diciamo, popolare di rivendicare i propri diritti. Questo sicuramente non ci deve abbattere, ma anzi dobbiamo fare una battaglia perché questi provvedimenti vengano assolutamente revocati.